Bene, allora io direi facciamo il dibattito su queste prime tre relazioni, poi facciamo un breve, brevissimo intervallo e poi facciamo altre tre. Allora, la parola a... Sì? Allora, e Garisto Lais. Siamo in Trentino, certo. La permissione di parlare in tedesco. Ich habe vor allem die beiden Referate von Mazzacane und Petit verglichen und fand es sehr interessant, dass die Lage in den drei Ländern, Italien, Spanien und Deutschland, so unterschiedlich ist. Und mir liegt es nahe, diese Unterschiede weniger auf Unterschiede der Wissenschaft, die gibt es natürlich, weniger auf Unterschiede der Rechtskultur, die gibt es auch im großen Umfang, als auf Unterschiede der politischen und vor allem der nationalen Situation zu erklären. Alle drei Nationen sind nach dem Ausdruck von Helmut Blessner verspätete Nationen im 19. Jahrhundert. Alle drei suchen ihre nationale Identität. Und Carlos Petit hat am Ende gesagt, in Spanien hat es keinen souveränen Staatsmacht gegeben. In Deutschland würde ich sagen, die Frage des Codice hängt zusammen mit der nationalen Frage. Nicht mit der Staatsgewalt primär, sondern mit der nationalen Frage. Es ist auffällig, dass die Debatte beginnt 1814 mit der Emphase der Freiheitskriege mit Tipo. Man hat die Chance, die Begeisterung, die Emphase zu nützen und zu sagen, jetzt machen wir einen Codice. Das wird nichts. Dein Held, Sarkozy, ist schuldig daran, unter anderem. Aber vor allem die politische Situation. Dann kommt 1848 die zweite große Chance. Auch sie misslingt in Deutschland. Dann, auch in der 48er Verfassung heißt es, Unificazione delle Leggi, also die Vereinheitlichung als politisches Ziel. Dann kommt die norddeutsche Bundesverfassung, da steht nochmal drin, Rechtsvereinheitlichung. Und erst mit der gelösten Nationalfrage beginnt es. Das ist, glaube ich, doch der entscheidende Punkt in allen drei Ländern. Ich wollte zweitens auf den von dir, Aldo, genannten Punkt der Rechtsvergleichung nochmal kommen. Es ist auffällig, dass in der Mitte des Jahrhunderts die Rechtsvergleichung in ganz Europa beginnt. Und zwar nicht nur im Zivilrecht, sondern auch im Strafrecht, Mittermeier zum Beispiel, und im öffentlichen Recht. In Italien ist es wohl Amari, der von dieser Biologia delle Leggi spricht. In Deutschland ist es Molen, Mittermeier vor allen Dingen und Mancini natürlich. Warum kommt das? Ich will nur ganz kurz sagen, thesenhaft, wie ich mir es vorstelle. Das Naturrecht des 18. Jahrhunderts ist als verbindliche Sozialphilosophie zerbrochen. Es kann nicht mehr genutzt werden als gemeinsamer Boden. Zweitens, die idealistische Philosophie des frühen 19. Jahrhunderts ist mit dem Tod von Hegel zu Ende. Und sie ist nicht kodifikationsorientiert und nicht staatsorientiert. Sie kann auch nicht den Boden geben. Und drittens kommt dann wegen der politischen Veränderung die Wendung zum Realismus. Überall in Europa gibt es Nationalkodifikationen und man muss jetzt vergleichen, um das Material zu haben. Aber man hat keine verbindende Sozialphilosophie mehr. Man wird realistisch, sammelnd, naturwissenschaftlich orientiert. Und in Deutschland, das erlaube ich mir noch als kleine Bemerkung, in Deutschland kommt ein spezieller Punkt dazu. Wir haben 36 kleine Monarchien und große. 36. Und die Rechtsvergleichung ist im öffentlichen Recht die Klammer für das Nationale, für die Hoffnung, man könnte doch ein gemeinsames Staatsrecht haben. Deswegen muss man alle 36 Monarchien und Verfassungen vergleichen. Und an der Universität wird gemeines, allgemeines Staatsrecht gelehrt als nationale Hoffnung. Man kann nicht, es ist sinnlos, das Recht von Kleinstaaten zu lehren. Es ist auch ökonomisch an der Universität nicht sinnvoll, weil nicht genügend Studenten interessiert sind. Also muss man rechtsvergleichend arbeiten. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung zum öffentlichen Recht. Und die dritte Bemerkung zu den Advokaten, das fand ich sehr interessant. In Spanien spielen sie offenbar eine große Rolle, in Italien auch, in Deutschland keine. Du hast das, Aldo, ganz deutlich gesagt. In Deutschland herrscht die Wissenschaft oder die Politik, aber nicht der Advokat. Der Advokat ist keine Figur des öffentlichen Ansehens. Er hat keine Stellung im Verfahren. Die Advokatenrolle bildet sich erst im 19. Jahrhundert heraus. Das ist ein ganz großer Unterschied und vielleicht sollten wir über diesen Punkt nochmal etwas näher sprechen. Grazie. Altri interventi? Sì, sì, volevo chiedere una cosa a Carlos. Ci hai fatto un quadro molto interessante, direi almeno per me, per molti versi insospettabile, della situazione spagnola. Viene fuori un Ottocento in definitiva privo di un codice vero e proprio. Ecco, mi chiedo a questo punto, forse bisognerebbe ripensare allora anche questo concetto di Cassazione, perché evidentemente il concetto moderno di Cassazione come giudice supremo in funzione della nomofinchia e della capacità di unità dell'ordinamento è legato strettamente al processo codificatorio e a un primato della legge come fonte esclusiva del diritto. Ecco, quindi viene fuori anche attraverso un ricorso che si apre ad una grande varietà di mezzi di impugnazione, cioè di motivi di impugnazione, scusa, viene fuori direi più una similitudine con tribunali di antico regime, in definitiva, no? Che con il modello cassatorio in senso stretto. Ecco, volevo sapere la tua opinione, grazie. Raffaella. Antonio Cardini, tu hai sottolineato come a tuo avviso la via italiana tra libertà, proprietà, con dei limiti, eccetera, continui fino alla prima guerra mondiale, questo atteggiamento di mediazione della scuola italiana. Quindi secondo te va oltre anche le svolte degli ultimi decenni del secolo, perché questo romperebbe con un'interpretazione da parte degli storici economici che vedono negli anni Ottanta con l'avvento del marginalismo, eccetera, qualcosa che pone una rottura con la tradizione della scuola economica precedente. Per te invece sarebbe una sopravvivenza di questo atteggiamento al di là di queste differenze di scuola? Ancora? Io volevo chiedere questo, come si concilia questa vita così difficile dei codici durante tutto l'Ottocento con l'idea che ci sia una figura europea di Stato di diritto? No, io sono stato molto colpito da queste due relazioni sul codice. Cioè, ora non è condivido, no? Le cose che ha detto, io le sospettavo da tempo che le cose stessero così. Tuttavia, il lato codice come fonte di diritto, cioè la vecchia nozione tradizionale, ecco, non la vorrei sommersa da questo. E questo forse ti do solo l'esito per precisare questo rapporto tra interpretazione e fonte di diritto, perché rimane pur sempre vero che a un certo punto accade qualcosa che è ora tra i giuristi, che è tecnicamente capace di abrogazione, che è la vera nuova cosa, cioè leggi si sono sempre fatte, ma per la prima volta si è capace di fare qualcosa che abroga il vecchio. La sistematicità non è una prestazione astratta, è ciò che consente e obbliga l'interprete a trovare la soluzione del testo in modo che i giudici, in poche parole, non vadano continuamente nelle vecchie miniere del diritto comune. Ora, se noi teniamo presente questo, cioè il codice come fonte, allora questi libri che anch'io ho sfogliato qualche volta, molto curiosi, in cui il codice insieme al commento, alle pandette, alle raccolte medievali, ecco, tutto questo come lo valutiamo? Ho anche il sospetto che ci sia quello che dici tu, ma sia anche, come dire, abbia un'efficacia consolatoria verso un nuovo che è troppo forte, troppo aggressivo, no? E dal quale i giuristi si difendono, dicendo: noi continuiamo ad esistere come scienza e ve lo dimostriamo perché le nostre vecchie cose, ora sto parlando quasi in famiglia, le nostre vecchie cose sono importanti per interpretare il codice, no? Quindi c'è quello che tu dici, ci sono i pratici, c'è la necessità di rivedere una nozione troppo forte, statualista di codice, ma c'è anche semplicemente, come dire, un'autodifesa della scienza giuridica che vuol dimostrare che il suo ruolo non finisce con il codice, no? E allora allega continuamente queste cose ai codici. Questo è quasi psicologico, no? Ma ha un ruolo in tutta questa vicenda, secondo me, no? Ein kleines Wort noch. Ich möchte das nachdrücklich unterstreichen, was Herr Stolleis gesagt hat, es in einem Punkt auch noch exemplifizieren, was die Kodifikationsfrage anbelangt. Dort, wo das Problem ganz drängend wird, kann man sogar auf die Einheit des Staates verzichten, nämlich auf den Bereich der Wirtschaft. Die Wechselordnung wird als erste möglich, weil die Probleme so drängend waren. Im Bereich des Privatrechts sieht es etwas anders aus. Im Bereich des Privatrechts nimmt plötzlich die Rechtsprechung eine, wie wir auch bei Karolotik gemerkt haben, enorme Bedeutung an, die bis an die Stelle der Vis Legis gehen kann. Das heißt, die gesamte Kodifikationsdebatte und Kodifikationsarbeit ist auch davon bestimmt, inwieweit Rechtsprechung durch Präzedenzentscheidungen eine Ersatzfunktion für Kodifikation zu leisten in der Lage ist. Altri interventi? Allora, se non ce ne sono, rispondo rapidissimamente. Sono d'accordissimo con quanto diceva Michael Stolleis, e adesso in parte lo riprendeva anche Monaut. È chiaro che la differenza di svolgimento della vicenda codificatoria nei tre paesi ha radici politiche sulle quali non ho potuto, radici della diversità dello sviluppo politico nei tre paesi sulle quali non ho potuto soffermarmi. E certo che, per esempio, il dato più rilevante è il collegamento forte che in Germania la questione del codice ha con la questione nazionale, collegamento che viceversa in Italia non si dà, o almeno non si dà negli stessi termini. Quindi dico che sono d'accordo e non mi soffermo su questo punto, che ovviamente dovrebbe essere illustrato più largamente. È importante invece aggiungere qualche cosa su un altro punto, credo molto rilevante, delle osservazioni di Michele, vale a dire la funzione, starei per dire, lui non ha formulato questi termini, io per brevità direi la funzione anche di costituzione di un fondamento ideologico, per così dire, unitario, che la comparazione viene ad assumere in sostituzione del vecchio e tradizionale, non più proponibile, bagaglio comune dei giuristi costituito dalle idee del giusnaturalismo. Questa è sicuramente una funzione che la comparazione in qualche modo svolge anche in Italia. Però in Italia mi pare che questo ruolo sia svolto in maniera più debole di quanto non accada in Germania, in maniera più debole corrispondente al fatto che la scienza giuridica italiana ha una fondazione teorica meno robusta e quindi si muove tutto sommato più attentoni su questo terreno. Faccio un esempio. In Italia continua ad avere un ruolo molto simile accanto a quello della comparazione, nel senso che abbiamo detto, anche nell'insegnamento universitario una disciplina come l'enciclopedia giuridica, ovvero introduzione alle scienze giuridiche, che è esattamente una disciplina che tenta di fornire questo fondamento ideologico-culturale, entrambi gli aspetti, di carattere generale alle scienze giuridiche, introduzione alle scienze giuridiche. Come opera questa disciplina? Opera facendo i tentativi più vari nelle più varie direzioni e utilizzando soprattutto, attraverso ancora una volta, commistioni di più vari materiali. Questa introduzione alle scienze giuridiche utilizza vecchi residui del giusnaturalismo, oppure al contrario, tenta una strada opposta, cerca di appoggiarsi alle nuove filosofie del diritto germaniche questa volta, oppure ancora cerca di rimescolare materiali del diritto romano con principi della comparazione. Ecco, quindi è un tentativo in Italia rispetto alla Germania, per un verso direi ancora una volta più debole, per un altro tutto sommato più articolato, con un ventaglio tutto sommato più ampio. Accanto però a questo ruolo, ecco, Michael diceva che in Germania questo ruolo lo svolge la elaborazione di una teoria del diritto pubblico generale. In Italia non c'è qualcosa di simile. In Italia non abbiamo una elaborazione forte, sto parlando di anni risalenti, poi le cose cambiano verso la fine dell'ultimo quarto del secolo, ma prima degli anni Ottanta, tutto sommato, non c'è questo, non c'è, non, o almeno non vince questa strada, si tentano piuttosto strade assai aperte e disarticolate, come quelle della comparazione, nel senso che io dicevo e che è molte volte vicino a questa cosa strana che è la introduzione alle scienze giuridiche. Non è un caso che la prima cattedra di diritto comparato in Italia viene istituita nell'Università di Napoli nel 1861, appena essa viene riaperta con lo Stato unitario, ma viene affidata a un personaggio dalla cultura assai farraginosa, diciamolo pure, come Vittorio Imbriani, che proviene da un ambiente di forensi, che proviene tutto sommato dall'ambiente di questi avvocati, non dall'ambiente di questi avvocati professori, ma dove l'accento sta più sulla parola avvocato che non su quella professore, e che ha nella sua cultura elementi assai vari, un po' di cultura dello storicismo tedesco, mescolata a vecchie cose dai ideologhi dell'epoca del decennio francese e così via. E naturalmente sugli avvocati, certo, il discorso dovrebbe essere molto lungo. Il codice come fonte va sommesso, no, sicuramente mi sono espresso in maniera molto drastica perché mi premeva far risultare con forza un aspetto, ma è evidente che l'introduzione del codice modifica drasticamente tutto il sistema delle fonti. C'è però un punto che l'ambiguità in fondo sta dentro lo stesso codice napoleonico, perché quando il codice napoleonico contiene un articolo 7 che abolisce le vecchie fonti, ne contiene però uno numero 4 che impone al giudice comunque di decidere, pena il rischio di incorrere addirittura nel caso di denegata giustizia. Allora se il giudice deve comunque decidere, di nuovo la tensione tra il codice fonte e il codice dentro un sistema dove c'è un forte peso alla interpretazione, dove comunque per il giurista l'interpretazione è il suo strumento principale, di nuovo questa ambiguità sta addirittura a origine, sta in qualche modo già nello stesso codice napoleonico. In questo senso a me premeva marcare e sottolineare questo aspetto, soprattutto perché se guardiamo a Savini, la forza dell'operazione scientifica che lui compie è quella di spostare subito, fin dall'inizio, prima ancora che la questione si ponga sul piano politico, la sposta tutta sul terreno della teoria della interpretazione, e crea un binario forte, in Italia certamente non va così. In Italia quindi senza dubbio codice è fonte che ha tutta una serie di conseguenze. Ed è verissimo anche che questi materiali che vengono spesso accostati insieme hanno certamente una rivendicazione di ceto, molte volte, un tentativo di in qualche modo di mantenere in vita delle pratiche anche convenienti, quindi voglio dire, questo sicuramente. Però accanto a tutti questi aspetti sui quali non solo concordo, ma si potrebbe elencare ulteriormente, certamente anche risvolti psicologici di ogni genere, accanto a questo io però vedo anche uno sforzo che è lo stesso che compare anche nella comparazione, per così dire, ed è lo sforzo comunque di creare un reservoir di materiale qualitativo. In una situazione che ha, appunto, e questo è un discorso che attiene alle fonti, sì, in una situazione nella quale certamente le fonti preesistenti sono drasticamente ridimensionate. Tutto il diritto feudale è eliminato e con esso la maggior parte della pratica forense. Non bisogna dimenticare che la pratica forense opera molto di più nel targo di diritto comune su questioni che hanno natura di diritto feudale piuttosto che di diritto romano, drastica limitazione certo del diritto romano, pratica eliminazione del diritto canonico dalla stragrande maggioranza delle materie, per non dire quasi tutte, e dunque c'è indubbiamente un sistema di appunto direi quantomeno di drastico dimensionamento delle fonti al quale occorre rispetto al quale occorre ricostituire un punto di riferimento che ha valore ideologico in sostituzione della ideologia giusnaturalistica, che ha valore pratico in sostituzione di un deposito di materiale che non c'è più. Poi ci sono sicuramente tutte le altre cose, e probabilmente le cose che ricordavi tu sono anche come dire, quantitativamente maggioritarie, può darsi, io sono persuaso che sia sicuramente così, però questo elemento di spunto c'è. Che diavolo di fine di rapporto c'è tra questa vita complicata dei codici e la questione dello Stato di diritto? E beh, qui non so se posso, la questione è molto complicata, se Piero me lo permette lo risolverei in una battuta, mi sembra che la vita difficile dei codici, quantomeno in Italia, sia rispecchiata dalla debolezza del liberalismo italiano nella sua concreta realizzazione politica e nel suo concreto esprimere l'insieme della società, perché poi ricordiamoci che tutto questo giochino a lungo riguarda fasce sociali enormemente ristrette, la gran parte del paese, della popolazione, la gran parte della gente, per usare il termine più neutrale, più proprio possibile, la parte della gente non è toccata né da questa dinamica relativa ai codici né da tutte le altre. La stentata vita dei codici è la stentata vita del liberalismo italiano che poi riesce a introdurre, a toccare, credo, è un'ipotesi di risposta, poi è chiaro che è un tema talmente grosso che richiederebbe di fermarci a riflettere un po' meglio su questo punto. Per quanto riguarda il problema degli avvocati, io innanzitutto mi chiederei su chi sia l'avvocato all'Ottocento, almeno all'Ottocento spagnolo, perché ovviamente, almeno in un paese piccolo in questo senso culturale, dove si deve ritenere la Spagna dell'Ottocento, l'avvocato, il politico, il ministro, il professore è sempre la stessa persona. Il problema è che questo qua si presenta a se stesso come avvocato e che ritiene che la sua specificità sociale venga dal fatto di essere, di lavorare come avvocato. Dunque è ovviamente un politico, ma è un avvocato che eventualmente fa politica, forse tutta la sua vita, ma lui è sempre avvocato. In questo senso si può dire che il tentativo codificatorio è sempre pensato come qualcosa propria della professione d'avvocato, che non ha bisogno di una legittimazione parlamentare, perché appunto è solo un intento sistematico di una materia che tutto sommato non è un cambiamento sociale molto forte, sono scarsissime le manifestazioni di una rivoluzione sociale, di una rifondazione della società. con il fatto di promulgare i codici e così via. È molto interessante l'osservazione, la domanda che mi fa Bernardo Sordi, perché in effetti per difficoltà di esprimermi e difficoltà anche di concentrare tutto questo materiale non molto bene articolato, perché la realtà storica è così, i testi sono così, non ho potuto esprimere qualche cenno che però ci interessa e che si può adesso qui sottolineare la discussione. È vero, sì, che questo concetto e questa prassi peculiare della Cassazione spagnola ha molto da vedere con un discorso giurisprudenziale dell'antico regime. Tutto sommato, questa tematizzazione processuale del fenomeno codificatorio, io direi, ha qualcosa da vedere con il fatto di una politica intesa come atto e attuazione di giustizia, ma nel senso più processualistico del termine, no? Il potere opera nella società tramite processo. E si può dire, insomma, stilizzando molto l'argomento e i fenomeni, che questa presenza di un diritto giurisprudenziale in tutto l'Ottocento spagnolo e oltre l'Ottocento è anche una presenza d'antico regime. Dunque il problema sarà di capire nei discorsi dei giuristi quando, e io non sono ancora riuscito a capirlo sempre, perché anche un ventaglio di processi non simultaneamente operabili, quando il vecchio non c'è più e le stesse parole e fenomeni simili sono cose nuove. Per quanto riguarda la codificazione, io direi che appunto questo concetto codificazione è l'unico che va considerato come cosa nuova. Quando si parla o si definisce il codice, insensibilmente si parla sempre di vecchi codici, codici nel senso più antico del termine. Quando la codificazione può diventare testo, benché un testo molto debole, si può parlare di una svolta, di una presenza molto tradizionale, che però rimane fortemente giurisprudenziale comunque. Infatti, qui penso che più esattamente col discorso della Cassazione spagnola è collegato il fenomeno dell'articolazione dell'amministrazione della giustizia e non il problema del controllo della legge. Un problema, pertanto, ancora di processi e non di sostanze, è un problema di strumenti. La Cassazione va introdotta in diritto spagnolo in un decreto del 1838 indirizzato alle udienze, no? Ai tribunali di appello, con istruzioni di come devono trattare i ricorsi alla Corte e il Tribunale Supremo. Tribunale Supremo che per tutto il secolo, almeno chiaramente fino alla legge provvisionale, cosiddetta legge provvisoria organica, provvisoria ha avuto un vigore di più di 100 anni. Comunque questa legge provvisoria del 1870 fino a questo momento il Tribunale Supremo innanzitutto è un organo più simile al italiano Consiglio della Magistratura che non ha una Corte di Cassazione, sono ridottissime le competenze e l'attività materiale dei giudici della Corte Suprema in questo senso tipico della Cassazione francese, è un organo politico di articolazione di un insieme di corporazioni che hanno un senso, una tradizione molto forte d'antico regime, che sono le udienze, i tribunali superiori. Dunque la Cassazione si deve intendere soprattutto, e perciò anche questo paradossale concetto e tecnica giuridica della Cassazione, come uno strumento che ha come guida, come futuro, come progetto, trasformare un ceto professionale non dominato dal potere, che è quello dei magistrati superiori. E, codice Stato del Diritto, è chiaro che questo modello di Stato non funziona chiaramente per la Spagna e penso che si può rispecchiare molto bene sia nella Cassazione sia nel codice, che anche nel caso spagnolo abbastanza particolare. Tanto che in una forma piuttosto intuitiva, senza sapere tanto bene le cose che erano allegate in causa, più di un giurista dell'Ottocento spagnolo parla: ma tutto sommato noi non siamo come i francesi, siamo piuttosto come gli inglesi, appunto per il ruolo decisivo di un diritto di precedenza, un diritto di giurisprudenza, un diritto dove la Cassazione si può presentare perché la dottrina del tribunale non va accettata per i corti inferiori, e dove i corsi è anche un materiale tutto da studiare, forse difficile da riparare, ma i libri di testo che ho visto più adatti per l'insegnamento universitario parlano soprattutto della giurisprudenza del Tribunale di Cassazione, sistematizzata, ma il contenuto è la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che deve scegliere tra una, appunto come nel diritto comune, tra una varietà di fonti, con problemi anche di conoscenza storica di queste fonti, e di contenuto per una società che cambia, questo è vero. Perciò non penso che, almeno nel caso spagnolo, e finisco così, il problema del codice sia un problema di fonte del diritto. Quando finalmente va approvato il codice spagnolo, e con qualche opera interessante e persino divertente, perché le edizioni ufficiali non coincidono, e dunque i giuristi si chiedono: ma qual è il vero testo della legge? Perché qui risulta che la pubblicazione è indivisibile, ma l'altro testo, anche ufficiale, dice che l'obbligazione in questo caso è indivisibile. Dunque il giurista deve interpretare per sapere che cosa vuol dire, no? Ma tranne questi commenti abbastanza spezzativi dell'opera finalmente fatta, si bandisce un concorso nell'Accademia di Giurisprudenza sul diritto consuetudinario, e tutte le monografie o le monografie più interessanti che scritte in Spagna tra 8 e 900 sono tutte sul diritto consuetudinario. Dunque il codice non va apprezzato nemmeno come fonte del diritto. Antonio. Eh sì. Ecco, è un problema molto complesso quello che pone Raffaella, nel senso che bisogna distinguere tra la cultura economica e il pensiero economico innovativo, in sostanza. Soprattutto il marginalismo, e i marginalisti tra il 1890 e il 1900 fanno una battaglia durissima per affermarsi. Così è possibile mostrare, non voglio dilungare troppo, ma insomma è possibile mostrare tutte le battaglie anche accademiche, concorso per concorso, che sostengono per affermarsi. Ecco, però una loro affermazione anche accademica non si può parlare fino all'inizio del Novecento, anche se, vedendo le cose dal punto di vista della storia del pensiero economico a posteriori, vediamo un'affermazione anche abbastanza precoce in Italia dei testi dei marginalisti. Alla fine degli anni Ottanta esce, come è noto, prima il libro di Pantaleoni, il libro di Marcia, ma questo non si... nel 1800, io porto sempre precedente, nel 1889 il libro che ebbe maggior successo non fu i principi di economia pura di Matteo Pantaleoni, ma i principi di economia politica di padre di un gesuita, di padre Matteo Liberatore, che fu un estensore della Rea Mondovana, che ebbe tantissime traduzioni in spagnolo, in tedesco, e che era tutto una recensitoria contro il liberalismo. Nitti non diventa marginalista, cioè mai, ma insomma, almeno così, lui assai tardi. Io ho citato Dino Valenti perché Dino Valenti dice: la scuola, io sono l'esponente della scuola italiana, la scuola italiana, lui si dice, lui lo proclama per tutto il libro, un manuale, quello di Dino Valenti, che viene pubblicato nel 1906 e poi ripubblicato in continuazione, ristampato, perché aveva grande successo, fino agli anni 30, così anche tanti altri. Ecco. Questo non significa però che non ci siano i marginalisti che non tentano di tutto di fare per farsi largo, e c'è una, è molto interessante anche seguire lo sviluppo anche delle carte, per esempio della storia delle battaglie per i singoli concorsi. Diceva Marcello Pantaleoni che il capo di tutte le di tutti gli economisti faceva vincere sempre lui di scuola storica perché era un camorrista. Va bene, allora facciamo 10 minuti di intervallo.